Amada mia, amore mio. Amada mia, amore mio. Amada mia, amore. Amada mia, amore mio. Amore mio, amada mia, amore mio, amada mia, amore. Amore mio.